Il punto di Stefano Folli. È vero, i prossimi giorni saranno importanti per l'ambizioso piano di riforme che il governo sta coltivando, non per vederle realizzate naturalmente, ma per dare agli italiani il senso che si è passati dalla fase del progetto a quella della messa in opera. E in realtà, dopo gli annunci, adesso è l'ora della concretezza. Questo vale anche per le riforme costituzionali e per l'annosa legge elettorale, uno dei temi più controversi e oscuri della scena pubblica. Ed è giusto che ci sia il più ampio confronto politico, come ha ricordato ieri il Capo dello Stato al nostro Premier. Ma Renzi in questo caso non ha che l'imbarazzo della scelta. Sulla carta gli interlocutori non mancano, da Berlusconi alla Lega e adesso, come abbiamo visto, anche Grillo. Solo che tutti questi apporti non sono sommabili fra loro. Ai fini pratici la Lega e Berlusconi, entro certi limiti, sono funzionali al progetto più di quanto non sia Grillo, che punta solo a impedire una riforma elettorale che lo renderebbe marginale. Eppure Grillo in Parlamento è in grado di creare ancora parecchio disturbo.